cry. Honestly, no. If I no longer story, it bubbles out of me like weeds from the ground. Can you keep a secret? Okay, I will try. Keep it inside. L'unico programma L'ora del complotto che può esserci come mancare, iniziare dopo come prima, ma poi alla fine te lo ritrovi sempre domenica alle 14.30 quando stai cercando di digerire la caponata, la peperonata, la carbonara. Can you keep a secret? Well, why do you ask? It's clear from the gallery you're dying to tell me what's been going on. You can't keep it inside. L'unico programma che prevede la possibilità di fumare dentro la sede di Exalge durante il giorno, no, non è vero. You can't keep it inside. L'unico programma che può durare mezz'ora come due ore come 10 minuti e che ti lascia sempre insoddisfatto. L'unico programma in cui si fa autoironia all'autoironia e in cui gli stacchi musicali durano 3 ore. Announcing your intention. Se ci senti, vieni a leggere. Benvenuti intrappolati nella rete, attraversati dai suoni e rumori dell'ora del complotto, Punzia numero 11. Il primo numero palindromo, se vogliamo almeno due cifre, non contiamo l'8 e l'1, scritto alla romana, palindromo come il 22/2/2022, data in cui speriamo il processo di rivoluzione della nostra società possa accelerare. Perché? Non perché è una data palindroma, non perché arriveranno gli alieni e nemmeno resuscitano i Maya, ma perché lo decidiamo noi. Ci troviamo in tutti insieme per le strade, nelle piazze, nei boschi, dove volete, e chiacchieriamo del più e del meno, di cosa va e di cosa non va, cerchiamo di fare politica, la famosa cosa comune nel vero senso del termine. Staide ci ha insegnato che la rivoluzione non è un avvenimento istantaneo, ma un processo, e ci tocca sudarlo, ci tocca parlare, comunicare, spiegare, sbattere la testa contro il muro, farsi mancare di rispetto. Mancare di rispetto a se stessi, ma se ci dedichiamo veramente a produrre un cambiamento, forse potremmo riuscirci. Ma non essere troppo ottimista, del resto non sono i desideri che lottano contro la nostra volontà e ci trascinano a compiere atti meno etici, ma la nostra volontà stessa è divisa in due, o forse in tre. Come dice Degam, alto filosofo urbano, potrei anche se non devo ma voglio, potrei ma non voglio qualcosa che devo, potrei dover qualcosa che voglio, potrei non volere qualcosa che non devo, potrei non dovere qualcosa che non voglio, potrei dover qualcosa che non voglio, potrei voler qualcosa che devo, potrei voler qualcosa che non devo. Insomma, quando dialogate con voi stessi, cercate di andare d'accordo, ma soprattutto dialogate con voi stessi. È un invito a svolgere quell'attività che di solito prevede un protagonista, un antagonista e un osservatore, tutti lì dentro la vostra testolina. Bene, abbiamo già citato, fatto due riferimenti all'editoriale numero meno uno, Non è re ma è nudo, che potete adesso finalmente trovare sul sito da leggere. Se volete un cartaceo stampatevelo oppure chiedetecelo, ma non ve lo daremo. Copia unica, unica tiratura, solo digitale, perché preferiamo minare il coltan in Congo piuttosto che piantare faggi e pioppi lungo il Po. Ovviamente gli editori si stanno muovendo per il prossimo numero, il numero 0. Il tema è la materia. Se volete contribuire con materiale grafico, testi o con saperi tecnici vari del campo dell'editoria, della scrittura, del rivistaggio, scrivete a info@. Zhuang Ji sognò di essere una farfalla. Racconta che una notte sognò di essere una farfalla che volava leggera e spensierata. Dopo essersi svegliato era confuso. Si domandò come potesse determinare se era veramente Zhuang Ji quando aveva appena finito di sognare di essere una farfalla, o una farfalla che aveva appena iniziato a sognare di essere Zhuang Ji. Ciò suggerisce molte domande sulla filosofia della mente, del linguaggio e sulla nosologia. Zhuang Ji, mentre sognava, per la proprietà della condensazione, si vedeva farfalla, ma allo stesso tempo era anche un essere umano. L'episodio ci fa pensare che esiste una dimensione dove gli opposti sembrano non esserci, dove i contorni non sono nitidi, e un'altra dove bisogna dare i nomi alle cose affinché non ci si senta perduti. Il sogno e la veglia, e un terzo piano. La tesi che la realtà esista come illusione è molto antica. Oggi possiamo dire che possiamo simulare l'universo con una macchina più piccola dell'universo, un grandissimo computer. Quindi potremmo essere in una simulazione alla Matrix molto facilmente. Pillola blu o pillola rossa? Ricca di contenuti, studiata nei minimi dettagli, quindi vi rilasciamo alla musica. Battered and bruised, strangely relieved, you run in. To a point you can't possibly possibly fail. Oggi no, oggi non ci arriviamo allora. Buona domenica.